è arrivato davvero il momento del nostro Pensatech. Vi abbiamo anticipato, questa mattina vogliamo parlare di videogiochi. Non lo farò ovviamente da sola, accanto a me questa mattina Elisabetta Tola, buongiorno. Buongiorno Damiana e buongiorno a tutti e a tutte gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci stanno ascoltando e magari stanno giocando, visto che oggi per molti è già un primo giorno di festa. Effettivamente una delle attività che si possono fare ascoltando la radio è anche giocare con i videogame contemporaneamente, il massimo del relax. Il massimo del relax, chissà appunto se qualcuno è in questo momento o su una app o davanti alla console in tuta o in pigiama, naturalmente molti saranno al lavoro, ma insomma quelli diciamo che già iniziano questa specie di lungo weekend pasquale, e però vorremmo sapere che cosa state giocando, ce lo dite su Twitter a @pensatech col CH, oppure Damiana i nostri soliti contatti. Sì, ricordiamo l'SMS al 348-7649-289 oppure la mail diretta a @radiocittadelcapo.it. Ma vogliamo anche capire con che supporto giocate, perché insomma c'erano i vecchi videogame con il Commodore 64, c'era Pong, tutti noi lo ricorderemo, questo gioco tennis fatto in realtà proprio solo con delle barrette a mo' di Flatlandia, mentre adesso ci sono dei gran videogiochi in 3D per cui non basta la scheda grafica media di un PC per riuscire a supportarli. Allo stesso tempo però c'è stata una rinascita dei videogiochi a 8-bit, si sono di nuovo evoluti, forse una seconda vita un po' più veloce, dallo Snake del Nokia, che credo tutti voi ricorderete, fino adesso ai nuovi smartphone che cominciano anche loro, prima avevano dei piccoli videogiochi, addirittura ricalcavano i vecchi videogiochi come Pac-Man, e poi adesso anche loro insomma velocemente si stanno evolvendo, e le app delle tablet sicuramente hanno poco da invidiare ai giochi del PC desktop. Infatti si stanno specializzando anche, come dire, proprio pezzi di pubblico. Ci sono quelli che hanno iniziato a giocare grazie ai tablet e agli smartphone, perché le app sono immediate, sono molto carine, in molti casi sono anche immediate come comprensione del meccanismo, non richiedono così un lungo periodo di training per capire tutte le regole del gioco. Poi ovviamente si può giocare dappertutto, non si è obbligati a stare davanti al computer oppure con la console davanti allo schermo televisivo, anche se io so, e lo so proprio perché non più tardi di 2 giorni fa mi è stato ricordato, c'è gente che trasloca, che si sposta portandosi dietro le console anche quando va in viaggio, in vacanza. Le console attuali o anche tipo i vecchi Commodore 64 da cui le persone non si riescono a staccare? No, per ora così, i racconti che mi giungono sono di console attuali, ma insomma console messe in valigia come lo spazzolino da denti, perché non si può stare nemmeno un giorno lontani dalla propria PlayStation, Wii o quant'altro, sappiamo che sono molte, l'Xbox eccetera eccetera, sono decisamente strumenti che ormai fanno parte della quotidianità, e quindi abbiamo, poi li sveleremo Damiana un pochino, anche un po' di numeri per dirvi quanto veramente non si tratta di giochi nel senso che sono un pezzetto marginale del mercato. In realtà l'industria del videogame è un pezzo molto importante non solo del mercato mondiale ma anche di quello italiano, e andremo a vedere. Allora io proporrei di sentirci un po' di musica per entrare nell'atmosfera, torniamo subito dopo. Thank you. E questa era la musica di... Magari lo facciamo... Facciamo un quiz. Sì, facciamo un quiz. Potrebbe essere una bella idea questa per la nostra campagna abbonamenti. Cosa ne dici, Elisabetta? Dico di sì, perché secondo me mai musica fu più adatta a illustrare un tema, possiamo dirlo. Eh sì, soprattutto un tema attuale. Vediamo se qualche nostro ascoltatore ci aiuta, ci dice qual è la musica di un videogioco. Questo ovviamente l'avete capito, da cui è tratta questa versione orchestrale, e insomma, se non ce lo dite ve lo diciamo alla fine della puntata, però cominciate a farvi l'orecchio, perché potrebbe essere davvero uno dei quiz per la nostra campagna abbonamenti. Ecco, quindi restando, diciamo, rientrando nel tema vivo di questa puntata di Pensatech, lo ricordo ancora, Twitter, @Pensatech col CH, fateci sapere se giocate, a cosa giocate, con cosa giocate, se online, offline, console, computer o smartphone o tablet. Ma ora io direi che potremmo... Ah, è arrivato un messaggio! È arrivato un messaggio! Sono integralista, l'unico vero, insuperabile e insuperato gioco è Tetris. Ciao Paolo, anche noi lo salutiamo. Grazie Paolo. Insomma, Tetris è effettivamente, rimane proprio una milestone del mondo dei giochi, sicuramente per molti di noi è stato un pezzo della nostra vita. E io ci giocavo col Game Boy a Tetris. Ecco, vedi, c'è chi ci gioca addirittura mettendo a posto ormai le valigie nel bagagliaio e così si ispira effettivamente alle strategie adatte. Quindi io direi, Damiana, potremmo lanciare il nostro Glossatech, che ci racconta un po' cos'è la parola videogames. V come videogiochi. In principio fu l'Atari. Questa la prima società produttrice di videogiochi che commercializzò un videogioco di successo. Si chiamava Pong e dopo una prima versione a moneta approdò nelle case di molti sotto forma di console, una scatola con due joystick da collegare al televisore. Riproduceva il gioco del ping pong. Due barrette bianche che colpivano un quadratino era tutto ciò che compariva sullo schermo nero. Ma il divertimento era garantito. Per chi volesse ripercorrere la storia dei videogiochi, l'omonima voce di Wikipedia è un buon inizio. Gli appassionati possono anche visitare i musei dedicati, che si trovano ad esempio a Berlino, Parigi o Roma. A Bologna, l'archivio videoludico della Cineteca raccoglie console e videogiochi a partire dagli anni 70, con un catalogo di quasi 2900 titoli. Una raccolta accessibile a tutti, gratuitamente. Descrivere in breve il mondo dei videogiochi al giorno d'oggi è un'impresa impossibile. Il videogioco come puro intrattenimento, come fenomeno culturale o come strumento educativo. La cosiddetta gamification, cioè l'applicazione delle dinamiche del gioco in realtà quotidiane, al fine di ottenere un maggior coinvolgimento. Sono solo alcune delle possibili analisi. Si stima che le entrate annuali derivate dalla vendita di videogiochi a livello mondiale siano tra i 60 e i 70 miliardi di dollari. Un'industria che ha superato quella musicale, ma anche una forma di intrattenimento che ormai compete con quello cinematografico. E molte figure professionali coinvolte, per citarne alcune: programmatore, designer, produttore, artista e tester, cioè colui che mette alla prova i nuovi giochi. Questo era un piccolo omaggio a Paolo, che ci ha scritto che per lui l'unico videogame è decisamente Tetris. E allora, Elisabetta, a questo punto basta chiacchiere, cominciamo a introdurre il nostro ospite. Entriamo nel vivo, come ci diceva Lisa che ringraziamo naturalmente, nel Glossatech, l'industria del videogame oggi è una delle più importanti a livello mondiale, insomma c'è un giro d'affari niente male, sentivamo appunto numeri importanti come 60-70 miliardi di dollari l'anno, quindi un'industria molto importante, un'industria che abbiamo sentito anche una lunga storia. E io ho scoperto, e non lo sapevo, e quindi sono molto felice di condividere questa scoperta con gli ascoltatori di Pensatech, che a Bologna abbiamo un importante e ricchissimo archivio videoludico. Do subito il buongiorno ad Andrea Dresseno, che è appunto dell'archivio videoludico della Cineteca di Bologna. Buongiorno Andrea. Buongiorno a voi. Allora, intanto vediamo cos'è questo archivio, ci puoi un po' raccontare che cosa contiene? Diciamo che come già dice la parola, è un luogo che vuole conservare il patrimonio storico videoludico, quindi i giochi che hanno in qualche modo fatto la storia del medium e non solo, quindi si parte dalle origini e si arriva fino ai giorni nostri. È un archivio quindi che da una parte conserva i giochi, al momento sono circa 2900, e li rende fruibili al pubblico, sia di studenti che di appassionati, quindi è un po' come andare in biblioteca, semplicemente oltre a trovare libri si trovano giochi e si possono appunto giocare. Ma il numero si riferisce ai titoli o anche ogni titolo può essere conservato in supporti diversi? Perché appunto abbiamo citato prima Tetris, credo che ognuno di noi possa aver giocato a Tetris in 10.000 modi diversi. Sì, le Tetris è uscito praticamente su ogni piattaforma, sono usciti un sacco di cloni, diciamo che questo numero si riferisce ai supporti fisici, quindi sono circa 2900 giochi nel senso di supporto fisico. Poi ovviamente ci sono molte collezioni di giochi, quindi dei DVD che contengono delle collezioni di giochi magari passati, quindi magari contengono anche centinaia di giochi, quasi degli omaggi ai giochi delle origini. Possiamo dire che ci sono ormai quasi una cinquantina d'anni di storia del videogame. Sì, infatti sono ancora molte diatribe su quale sia l'anno di nascita del videogioco, chi parla degli anni 50, chi parla degli anni 60, comunque più o meno, diciamo che 50 anni ci sono. Ci sono tutti. Ecco, che da quello che potete vedere, voi avete appunto anche la cura di questo archivio, quindi diciamo, cioè, intanto è un lavoro bellissimo, io immagino, che cosa significa curare un archivio di questo tipo? Significa catalogare tutti i giochi, quindi di ogni gioco descrivere il produttore, lo sviluppatore, l'anno di uscita, quindi conservare nel migliore dei modi e poi avere a disposizione le piattaforme di gioco per renderli fruibili al pubblico, quindi perché avere i giochi vuol dire anche consentire di farli giocare, quindi di avere le piattaforme su cui i giochi possono essere fruiti, quindi dall'Intellivision, all'Atari 2006, passando poi per le piattaforme e le console più moderne, dalla PlayStation a Wii, a Xbox 360, ecco. Insomma, pezzi della nostra storia, sì. Decisamente, ogni nome che citi qui in studio ci sono sguardi di complicità. Pezzi di cuore. Pezzi di cuore. Ecco, Andrea, chi viene a giocare? C'è un pubblico? Che tipo di pubblico è quello che viene al vostro archivio? È un pubblico molto variegato, perché ci sono studenti che magari devono fare delle tesi e quindi devono giocare, che a volte sono un po' strano, però sì, bisogna giocare per studiare. E ci sono anche appassionati, ci sono anche delle famiglie, a volte vengono delle mamme o dei padri con il proprio figlio, giocano insieme, quindi anche una dimensione di condivisione del gioco che per noi è molto importante. Spesso si parla che il gioco è qualcosa di alienante, in realtà può essere anche un elemento socializzante, e a volte in archivio vengono appunto anche intere famiglie, è capitato, a giocare. Ecco, intanto ricordiamo dov'è l'archivio della ecco. L'archivio è in via Azzo Gardino 65, appunto, dove c'è la biblioteca Renzo Renzi della Cineteca, quindi accanto al Lumière, quindi un luogo che insomma sta offrendo sempre più spunti di socialità per varie famiglie, vari gruppi di interessati a Bologna. Sì. È un luogo molto amato della città. Sì. Abbiamo citato prima le app, adesso con i nuovi videogiochi che si giocano con il cellulare oppure il tablet, come fate ad archiviarli? Diciamo che al momento ci stiamo concentrando sul gioco tra virgolette classico, quindi quello che normalmente avviene su supporto fisico con piattaforme classiche come appunto dicevo prima PlayStation, Wii, così via dicendo. Ci stiamo però aprendo anche ai formati digitali, quindi a quei giochi che escono solamente in formato digitale si possono scaricare attraverso i servizi online delle varie piattaforme di gioco. Quanto riguarda le app invece è una questione più complessa, perché è un mondo veramente enorme e ci vorrebbero veramente 20 persone a lavorarci, perché il mondo dei videogiochi effettivamente è molto ampio e sfaccettato, e quindi un po' alla volta stiamo aggiungendo tasselli a questo archivio. Ci sono dei progetti che state facendo per presentarvi, anche per presentare il gioco, appunto, dicevi, non come qualcosa di alienante, ma qualcosa che può dare qualcosa di anche di didattico? Sì, diciamo che da quando l'archivio è nato, ormai sono 4 anni, abbiamo fatto una serie di attività, sia rivolte alle scuole, con laboratori, ma anche attività in qualche modo di convegnistica e di festival, e anche dei premi. Abbiamo da 3 anni ci occupiamo del premio Wired, che vuole premiare le migliori tesi dedicate ai videogiochi, quindi tra l'altro il bando è aperto, quindi chiunque lo possa partecipare. Infatti volevamo citare proprio anche questo premio, sì. Wired, perché è un premio dedicato a chi studia i videogames, sì. È così? Cioè è aperto fino al 6 maggio, vorrei fino ricordare. Fino al 6 maggio è aperto il bando, ecco. Quindi chiunque abbia fatto una tesi sui videogiochi può partecipare, e il primo premio sono 1000 euro, che è una piccola cifra, però in qualche modo vuole ricompensare chi ha speso fatica appunto a fare una tesi dedicata all'argomento. Ecco, ricordiamo che assieme a voi e alla rivista Wired che citavi c'è la Cattedra di Semiotica dei Nuovi, sì, Media dell'Università di Bologna e l'Associazione Editori e Sviluppatori Videogiochi Italiani, anche sì. Qui abbiamo, e poi daremo qualche numero, abbiamo appunto incontrato questa realtà che riunisce un po' tutti quelli che sono le realtà italiane che stanno in questo mondo, dicevamo prima con il nostro Glossatech, tante figure professionali coinvolte nella produzione di un videogioco. Sì, perché è importante fare rete in Italia in questo momento, vedere che anche in Italia c'è possibilità di sviluppare, perché l'Italia comunque rispetto ad altre nazioni come la Francia o l'Inghilterra è un po' indietro in questo senso, però sta cominciando ad emergere, quindi è importante che tutti questi sviluppatori possano essere riuniti e in qualche modo rappresentati da un'associazione. Ecco, l'evento che citavi, quindi c'è questo premio, ricordiamo ancora, sì, la data del 6 maggio per gli studenti o comunque i laureati che vogliono appunto presentare la propria tesi, il primo premio 1000 euro, ma anche per i primi 3, se non sbaglio, la possibilità di vedere pubblicata, insomma, sì, la propria tesi proprio su Wired. Sì. Sì. Questo evento però poi, cioè questo premio, si inserisce in un evento che ci sarà a maggio, sì, e che invece sarà un evento, diciamo, vivace, presente, in cui anche verrà dato il premio Wired, ma ci saranno anche altre cose, ce lo racconti un po'? In realtà è una festa, si chiama Svilupparti, quindi anche dal nome già si intuisce, nasce da un'idea di Ivan Venturi, che è uno sviluppatore bolognese, da un evento a cui noi collaboriamo e che ospitiamo, ed è appunto una festa degli sviluppatori italiani, in cui appunto in queste 3 giornate gli sviluppatori possono incontrarsi sempre appunto alla biblioteca Renzo Renzi per presentare i propri lavori al pubblico e per conoscersi tra loro, quindi è un modo per presentare se stessi agli appassionati ma anche agli altri sviluppatori, una sorta appunto di festa, anche se vogliamo dire molto informale, però che negli anni passati ha avuto molto successo, quindi ci fa molto piacere poter ospitare nuovamente questo evento, e sarà il 10, 11, 12 maggio. Quindi diciamo il secondo weekend di maggio per Svilupparti 2013, e noi lo stiamo twittando dal nostro account @PensaTech, vi stiamo twittando naturalmente i link, perché penso sia aperto a tutti, Andrea. Sì, è aperto a tutti, è gratuito, quindi assolutamente chiunque volesse venire a fare un giro può venire tranquillamente. Anche per chi vuole rendersi un po' conto. Sì, chi vuole anche conoscere cosa succede in Italia, a livello succede di sviluppo. Ecco, un'ultima battuta, Andrea, ed è proprio questa. Cioè, è vero, l'Italia ha bisogno di farsi ancora un pochino forse le ossa, anche se dai dati che leggevo negli ultimi rapporti dell'Associazione Editori e Sviluppatori dei Videogiochi Italiani, appunto l'AESVI, che collabora anche al premio Wired, in realtà l'anno scorso, nel 2011, c'è stato il sorpasso, l'Italia ha sorpassato la Spagna, siamo quarti come mercato europeo dei videogame, davanti, sì, a noi naturalmente Gran Bretagna, Germania e Francia, che tu citavi come paese piuttosto vivace. Sì. Ecco, però ci sono molte realtà bolognesi che sono presenti in questo mercato. Sì, è vero, l'Emilia in qualche modo è una tradizione, perché già negli anni 80 c'era la Simulmondo, che era una casa che lavorava su Commodore 64 ed era abbastanza importante. Poi a un certo punto, in qualche modo, Bologna ha un po' perso questa centralità, però negli ultimi anni molte aziende, piccole aziende, sono in qualche modo risorte, e in effetti l'Emilia è abbastanza vivace, quindi a Bologna, ma non solo, anche in Romagna. Quindi diciamo che sì, che l'Emilia a livello di sviluppo sta tornando al centro forse dell'attenzione, ed è una cosa molto importante secondo me, e anche perché è bello vedere che c'è vivacità in questo senso. Cioè, vivacità naturalmente, appunto, è un ambito di lavoro molto creativo. Allora noi ringraziamo Andrea Dresseno dell'Archivio Videoludico della Cineteca di Bologna. Gli appuntamenti sono quelli già ricordati da Andrea, quindi 6 maggio per la scadenza del premio Wired e poi 11-12 maggio per Svilupparti, sempre appunto presso la Cineteca, e quindi sì, in Viazzo Gardino. Grazie Andrea, grazie, buon lavoro. A voi, a presto. E quindi, Damiana, molto vivace l'ambiente emiliano. Noi abbiamo provato, qui dobbiamo dare conto, questa è la prima parte probabilmente di un Pensatech futuro dedicato a questo tema, perché abbiamo provato a contattarli, questi sviluppatori, ma tutti, abbiamo avuto qualche problema di fuso orario. Di fuso orario, perché sono tutti a San Francisco, dove in questi giorni si è tenuto Game Connection, che è la più importante fiera mondiale dei videogame. Sono più di 43 paesi coinvolti e più di 1200 partecipanti, e proprio l'associazione degli editori e degli sviluppatori di videogame italiani partecipava con una nutrita delegazione italiana, rappresentava 10 aziende, di cui 3 appunto aziende bolognesi, magari le ricordiamo, e sono Studio Evil, Ticon Blue e Just Funny Games, e abbiamo provato a contattarli tutti, ma erano appunto tutti in volo e non potevano essere presenti con noi. Naturalmente l'appuntamento è per una prossima puntata di Pensatech, per raccontare un po' anche come lavorano, cosa vuol dire fare lo sviluppatore o il grafico, il creativo, o anche il manager di un'azienda di videogames. E poi c'è un'altra realtà che abbiamo contattato, che è quella di Timbuktu, che sta un po' nel solco di quello che tu dicevi all'inizio, cioè questa è una web magazine per iPad, pensata per il mercato dei bambini, e quindi nasce nativa per iPad, quindi diciamo è una magazine che già propone molti giochi, molte animazioni, ma appunto in questo nuovo ambiente, quindi non diciamo il classico videogame che si acquista nel negozio specializzato. E abbiamo scoperto che anche Timbuktu ha un po' origini bolognesi, visto che la CEO di Timbuktu ha studiato a Bologna, e la salutiamo anche perché ha detto che ascoltava Radio Città del Capo quando era qua a fare l'universitaria. Ha studiato proprio semiotica, vedi che tutti i fili si intrecciano e tornano lì, e in effetti un po' questa è la storia di un pezzo di mercato e anche di attività che secondo me è estremamente interessante. È estremamente interessante, noi vogliamo sapere anche cosa ne pensate voi e qual è il vostro rapporto con i videogiochi. Io leggo l'ultimo messaggio che ci è arrivato, è quello di Isa, che ci dice: grandi amori Tetris e Prince of Persia, ma ci dà anche dei consigli, perché dice: ora con l'iPhone il migliore Razzle, ormai spopola. Poi Tetris, World On, Quiz Cross e Bubble Shooter. Insomma, Bubble Shooter forse ricorda anche lui un altro videogame, questa volta che si faceva proprio nelle sale giochi ed era Puzzle Bubble. Quanti di noi ci hanno giocato?